Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo argomento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ben trovato al presidente Carlo Garufolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'Adico si allarga in senso buono del termine e cerca di offrire ancora maggiori servizi all'utenza, alle persone che ne hanno bisogno. Magari uno di certi servizi farebbe volentieri a meno, ma in alcuni casi davvero non se ne può fare a meno. Di cosa si tratta? Sì, l'Adico quest'anno insieme ad altre importanti iniziative ha deciso, proprio come hai detto te, promuoverne l'ultima, che è quella che presentiamo oggi, che è proprio quella di poter dar modo alle persone di potersi avvalere degli uffici legali gratuitamente dell'associazione qualora le persone abbiano dei requisiti e non abbiano la possibilità di sostenere dei costi di accesso alla giustizia. Cioè praticamente diamo la possibilità al consumatore di poter avere il libero e gratuito patrocinio dei legali. Ecco, il gratuito patrocinio è previsto dalla normativa, ma è previsto evidentemente ad alcune condizioni, cioè non tutti hanno diritto ad avere il gratuito patrocinio. Sì, infatti per essere precisi non è proprio un'iniziativa dell'Adico, ma l'Adico ha voluto praticamente sottoscrivere delle collaborazioni con degli studi legali, i quali sono affiliati all'albo dei patrocini gratuiti presso il Tribunale di Venezia, che permette quindi alle persone che non hanno i costi di poter rivolgersi a uno studio legale, a un libero professionista, qualora si rendesse necessario per forza di cosa promuovere un giudizio, accedere gratuitamente a quelli che sono i costi che un legale o che la giustizia potrebbe richiedere. E questo lo potrà fare gratuitamente se la persona in questo caso ha i requisiti, come hai detto tu, che non sono definiti dall'Adico ma dallo Stato. Immagino sia il reddito un requisito fondamentale, no? Sì, l'unico requisito che la normativa prevede è che la persona abbia un reddito inferiore a 10.600 e qualcosa euro all'anno, cioè significa praticamente circa 21 milioni di lire di una volta, che poi aumentano di oltre 1.000 euro per ogni familiare che uno ha a carico. Quindi praticamente è chiaro che l'associazione non ha interesse a fare le cause, perché normalmente gli strumenti che un'associazione ha per poter risolvere le controversie sono molteplici, dall'arbitrato, dalle transazioni, dalle conciliazioni e dalle mediazioni e via dicendo, o dai protocolli di intesa che periodicamente si sottoscrive con gli enti con cui si collabora o con cui ci si rapporta. Però è anche vero che a volte purtroppo per poter far valere i propri diritti non rimane l'alternativa, l'unica strada di poter promuovere una causa, andare in giudizio o anche di potersi difendere, come molte volte capita, anche soci che sono rimasti vittime anche di finanziarie o di episodi di qualsiasi genere. Certamente non sono le bollette, ma pensiamo per esempio ai problemi di vacanze rovinate, come possiamo pensare anche ai problemi condominiali, ai problemi di fisco e via dicendo. In questo senso abbiamo voluto organizzare questo tipo di servizio, rivolgerlo ai consumatori e renderlo praticamente completamente gratuito per qualora che qualcuno ne abbia bisogno e necessità, cosa che in quest'ultimo periodo sempre più frequentemente è stato, visto la crisi e visto la possibilità di un reddito sempre inferiore che le famiglie hanno. Dunque, accesso gratuito, un po' di panoramica sul tipo di argomenti l'hai già fatta, ma credo di capire insomma che una causa si possa seguire per praticamente ogni tema, o ci sono limiti anche su questo? No, normalmente non ci sono particolari limiti. Chiaramente a volte le persone devono sapere che per quanto un'associazione abbia un'organizzazione, una struttura che cerca di fare in modo che il consumatore che abbia dei problemi sostanzialmente cerchi di contenere al massimo i costi, e ricordiamo che l'Adico sostanzialmente è l'unica associazione che si è dotata di una carta dei servizi per essere trasparente e regolamentata nei rapporti con il socio, è anche bensì vero che qualche volta è necessario sostenerli, perché certamente sostenere delle controversie o andare in giudizio molte volte gli stessi costi dipendono dal valore della causa, e soprattutto in ambito immobiliare, nelle compravendite, nelle finanziarie, nei rapporti con il fisco, ma soprattutto anche con altri enti, come abbiamo parlato poco fa, le vacanze rovinate, che è un tema che normalmente in certi periodi dell'anno torna molto alla ribalta e alla cronaca, non rimane alternativa proprio perché le controparti, sapendo che ci sono dei costi per rivolgersi ai giudici, sanno anche che la maggior parte delle persone, anche in questo periodo soprattutto di grossa crisi, tendono a desistere. Noi in questo senso, invece, perché il consumatore non si veda leso in quelli che sono i propri diritti, abbiamo voluto trovare anche questa alternativa e rivolgere al consumatore, sapendo che così, rivolgendosi all'Adico, possono farsi assistere e possono promuovere in giudizio delle cause completamente gratis. Ecco, in caso di sconfitta, perché è chiaro, se uno vince la causa ha ragione e avanti, ma se uno perde la causa di solito deve pagare qualcosa. In questo caso come funziona? Ecco, è chiaro che normalmente sempre più frequentemente i giudici tendono a non fare in modo che le controparti riconoscono i costi, perché normalmente nelle cause civili l'orientamento è sempre quello che ciascuno si paga i propri costi. Però è chiaro che dopo, se uno vince, normalmente non continua a non pagare nulla, se perde qualcosina comunque c'è sempre un accesso alla giustizia che permette ai soci comunque di non sostenere dei costi, e al limite è tenuto a sostenere quelli della controparte nella parte quantificata, che è lo Stato in questo caso che li va a definire rispetto a quelli che possono essere un libero professionista. Però è anche vero che questo rischio normalmente non c'è, perché quando una persona viene all'Adico che ha un problema, noi sappiamo già dire con estrema certezza e verità assoluta se ci sono gli estremi per poter fare qualcosa o meno, perché come ho detto l'Adico non ha interesse a promuovere delle cause, ha solo l'interesse di far sì che ai soci vengano salvaguardati dei diritti che per noi, quando si rivolge a noi e ci sono gli estremi per poter fare o difendersi, in questo caso c'è veramente quasi 100% la garanzia che questa cosa non accada. E allora, per maggiori informazioni scrivete una mail info@associazionedifesaconsumatori.it oppure telefonate 041 534 9637. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.